Focus Economia. Sette minuti, Focus Economia, buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. Telecomunicazioni in primo piano anche in questa puntata di venerdì 7 agosto. Ieri lo ricorderete l'intesa tra Wind e Tre Italia con la creazione di un terzo polo nel mobile pronto a fare la concorrenza a TIM e Vodafone, una sfida tra gestori che nel futuro si consumerà soprattutto nel traffico dati piuttosto che quello in voce. Ecco perché l'importanza dell'argomento di cui parleremo tra breve nel primo tema di Focus Economia, ossia la banda ultralarga e il via libera del governo alla prima tranche di risorse, un ammontare che supera i 2,2 miliardi di euro e che serviranno, almeno nelle intenzioni, per interventi cantierabili da qui al 2020 in 6.800 comuni. Quindi il capitolo del grande caldo, aspetti positivi e negativi di un'estate all'insegna del bel tempo e delle alte temperature. Abbiamo parlato della vendemmia anticipata e dei quantitativi che dovrebbero essere superiori alle medie degli ultimi anni. Oggi altri due aspetti legati al sole e al caldo. Il boom di presenze nelle spiagge italiane e dall'altra parte il record di luglio per quanto riguarda i consumi di elettricità. Condizionatori, frigoriferi, congelatori e ventole ai massimi con un consumo, quello elettrico, che se nel passato raggiungeva i picchi in inverno per riscaldare ora si manifesta nei mesi estivi ed ancora agosto caldo anche sul fronte delle PMI con il pacchetto di misure pianificato dal Ministero dello Sviluppo Economico per rilanciare la capacità competitiva di questo importante settore produttivo e che prenderà il via entro questo mese. La giornata poi dei mercati, l'America crea 215.000 posti di lavoro, dato che però non entusiasma le borse. Tokyo poi con la banca centrale che dice sì ai nuovi aiuti all'economia. Quanto a Piazza Affari, Monte dei Paschi di Siena festeggia il ritorno all'utile e corre in borsa. FTSE MIB in questo momento in terreno negativo -0,31%, Francoforte -0,49%, Londra -0,17%, Parigi -0,41%. Tra queste in controtendenza, dopo il tonfo di inizio settimana, Atene con un +1,80%, Wall Street in terreno negativo, Nasdaq -0,62%, euro su dollaro +1,088%. Questo dunque il nostro percorso di oggi. Scriveteci allora al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia del sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. In breve partiamo come sempre con le materie prime. Oro in lieve rialzo a $1.093 l'oncia, petrolio a New York scende dell'1% a $44,2 al barile. Quindi l'economia internazionale, l'economia americana ha creato in luglio 215.000 posti di lavoro, sotto le attese però degli analisti. Il tasso di disoccupazione è rimasto fermo al 5,3%, con luglio il terzo mese consecutivo che l'economia americana crea più di 200.000 posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione resta fermo, lo dicevamo, al 5,3%, ai minimi dal 2008. Il settore privato ha creato 210.000 posti di lavoro, mentre quello pubblico 5.000. Nel comunicare i dati di luglio, il Dipartimento del Lavoro rivede al rialzo quelli di giugno. Ed ora la Grecia, con il rapido avvicinarsi della scadenza del 20 agosto, giorno entro cui Atene deve ripagare 3,4 miliardi di euro alla Banca Centrale Europea, il governo greco è in piena corsa per raggiungere con le istituzioni, Unione Europea, Banca Centrale, Fondo Monetario, un accordo da far approvare dal Parlamento il 18 di agosto. Frattanto, come riferisce l'edizione online di Tovima, i colloqui fra il governo di Atene e i rappresentanti dei creditori continuano e per oggi è in programma una teleconferenza con il Comitato Economico e Finanziario dell'Unione Europea. E i dati economici per quanto riguarda Atene logicamente restano comunque in difficoltà. Peggiora la deflazione in Grecia. A luglio l'indice dei prezzi al consumo armonizzato ai parametri europei ha segnato un calo dell'1,3% su anno, dopo il meno 1,1% di giugno, lo comunica l'Istituto Ellenico di Statistica. In Germania la bilancia commerciale ha riportato un surplus di 22 miliardi di euro a giugno, dato destagionalizzato superiore alla stima media di 21 miliardi, ma risultano in calo sia export che import. Rispetto a maggio scorso le esportazioni sono diminuite dell'1% e le importazioni dello 0,5%. E sempre in Germania la produzione industriale ha registrato a giugno un inatteso calo, riaccendendo i timori per l'impatto della fase di debolezza dei mercati emergenti. Cina in testa, l'indice ha evidenziato un meno 1,4% dopo il più 0,2% di maggio, mentre gli economisti puntavano in media su un più 0,3%. Per quanto riguarda l'economia internazionale, diamo uno sguardo al nostro paese. Intervento poco fa del Presidente del Consiglio Renzi, in qualità comunque di segretario del PD, nella direzione di Via del Nazareno. Il mezzogiorno al centro del suo intervento, gli annunci di Renzi intorno al 15-16 settembre, alla ripresa dell'azione parlamentare, ma prima della legge di stabilità. Vorrei che il PD uscisse con un vero e proprio master plan per il Sud, con una serie di proposte concrete. Ciò che dobbiamo valorizzare, dice Renzi, è la diversità di aree. Esistono i sud, non il sud, ma sul racconto che proponiamo, se c'è un punto che è chiave, che i sud che funzionano sono quasi sempre occultati e ignorati, cosa che per alcuni aspetti è comprensibile, anzi doveroso e giusto. Renzi poi interviene su alcune particolarità, alcuni progetti da vedere che sono in corso. C'è molto da fare, non basta che l'alta velocità, che è stata una grande intuizione, si fermi a Salerno, bisogna portarla a Bari e in Calabria. Voglio andare con Vincenzo De Luca nella Terra dei Fuochi, dove in 3 anni andremo a togliere le ecoballe. Queste ancora le parole di Renzi. Un ultimo passaggio del Presidente del Consiglio sul gasdotto. Ricordiamo la polemica per il gasdotto tra Albania ed Italia, che dovrebbe arrivare in Puglia. Sul TAP, questo è il nome del gasdotto, c'è una bellissima campagna di comunicazione, dice ironicamente Renzi, che fa vedere le immagini di una spiaggia bellissima del Salento in cui si immagina di portare il TAP e si dice: qui vogliono portare un gasdotto. Poi c'è l'immagine di una cala di Ibiza dove un gasdotto già è stato portato. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nel mese di giugno 2015 sono state aperte 40.845 nuove partite IVA. Rispetto allo stesso mese dell'anno precedente si osserva un discreto aumento percentuale pari a più 5%, in larga parte dovuto analogamente a quanto verificatosi a maggio alle nuove aperture nel settore dell'agricoltura, localizzate soprattutto al sud e nelle isole. Una notizia poi che abbiamo dato anche nel nostro primo sommario riguarda le piccole e medie imprese. Qualificazione professionale mirata, maggiore raccordo tra università, centri di ricerca e PMI per aumentare la qualità dei processi di trasferimento tecnologico, nuovo programma di agevolazioni per incentivare e stimolare l'innovazione attraverso la valorizzazione economica dei brevetti, e quanto contiene il pacchetto di misure pianificato dal Ministero dello Sviluppo Economico per rilanciare questo settore, e che prenderà il via entro agosto. Parliamo dell'estate, torna il binomio Ferragosto e Ombrellone. Dopo anni di crisi, per il momento clou delle vacanze, che dovrebbero essere l'attuale settimana e la prossima, si prospetta un vero pienone con crescita sostenuta di presenze e soggiorni, circa 500 aderenti alla CNA Balneatori di 50 località marine italiane segnalano infatti un'impennata delle presenze dell'ordine del 25% in più dell'anno scorso. La conferma del buon andamento della stagione arriva anche dal Sindacato Italiano Balneari, e Marta Cagnola ha intervistato il presidente Riccardo Borgo. Ascoltiamo. Agosto è cominciato bene, a dire, sull'onda del caldo e del bel tempo di luglio, le cose stanno continuando, confermando una tradizione peraltro che vede in agosto, se non ci sono problemi particolari, come il mese clou della stagione estiva. Direi che le cose sono cominciate bene, speriamo che continuino, e se così sarà credo che la stagione 2015 la segneremo positivamente, sicuramente. Questo un po', lei ha avuto notizie, sentore, un po' da tutta Italia? Sì, sicuramente sì, ecco, l'andamento climatico è omogeneo, sicuramente conta molto, perché è innegabile che il bel tempo ormai, poi con tutti i siti che danno tutte le informazioni di dettaglio, ormai la gente non si sbaglia, vuole essere certa che nel momento che programma una giornata è sicura. Poi abbiamo quelli invece, i clienti tradizionali, e quelli sostanzialmente sono confermati, il mese di agosto loro vengono da tempo e continuano a venire. E i vostri ultimi dati avevano dato percentuali molto favorevoli in Campania, Sicilia, e poi Abruzzo, Liguria, Puglia e Toscana. Sono queste le regioni che vanno meglio? Poi il dato finale poi lo trarremo a fine mese. Ecco, direi che il trend continua. Adesso poi sulle percentuali andremo a vedere se si confermano quelle di luglio, se ci sono scostamenti in qualche maniera. Però il trend è quello, insomma. L'estate sta andando bene e speriamo che continui così. Sì, perché ripeto, agosto è tradizionalmente il mese che funziona meglio, ecco, se il tempo ci aiuta non c'è ragione perché non ci porti verso fine estate in una maniera molto positiva. Poi volevo chiederle qualcosa su questo problema degli abusivi. Vi siete mai occupati di questo fenomeno dell'abusivismo? Se è un fenomeno che conoscete, se è un fenomeno ampio o circoscritto? Credo che sia abbastanza circoscritto, ecco, perché casi di questa portata, poi con questi numeri, sono assolutamente sorprendenti e devo dire, mi stupisco che solo adesso se ne venga a capo. Non penso che solo quest'anno si sia collocati su quel ben di Dio in riva al mare in maniera abusiva, peraltro senza fornire, presumo, nessun tipo di servizio per quanto riguarda la sicurezza o altre esigenze della clientela, in modo particolare la sicurezza. Ecco, tanta gente così senza che nessuno si preoccupi di controllare che tutto funzioni in mare per la sicurezza di chi si butta in mare, credo che sia un pericolo molto forte. Ecco, in genere noi siamo ovviamente contrari all'abusivismo, perché oltre che a creare una concorrenza scorretta, credo che poi droga il mercato, ecco, non avendo certezza di un prodotto di qualità, che è quello che noi cerchiamo di offrire con tutti i servizi adeguati. Ecco, uno, per quello che facevo riferimento alla sicurezza, quando uno va in una spiaggia e se la vede attrezzata immagina e ha diritto che ci sia sicurezza, anche perché paga, perciò la sicurezza in mare è un elemento fondamentale, non è solo un problema di mare grosso, ma anche quando c'è il mare calmo, dove la gente si butta con più facilità, magari dopo aver ampiamente mangiato, insomma, un bagnino, due o tre, in questo caso penso che ce ne vorrebbero molte di più, che controlli quello che succede in acqua e sia in grado di intervenire dove è necessario, credo che sia un elemento fondamentale. Sì, tra l'altro queste attività sono mascherate sotto una parvenza di noleggio ombrelloni, noleggio lettini, non è esattamente la stessa cosa di uno stabilimento balneare. Certo, sì, questo noleggio vorrebbe anche dire che uno se è autorizzato, perché ci sono posti in cui si noleggiano ombrelloni e lettini e poi ognuno si prende il suo ombrellone e il suo lettino e se lo sistema dove vuole lui. Qui mi pare di capire che probabilmente il tutto era già abbastanza sistemato e messo in ordine, pronto per accogliere i clienti, come talvolta succede. Se il noleggio ovviamente è una cosa diversa, rimane il fatto che anche zone di noleggio con così tanta capacità di offrire il materiale di noleggio, credo che ponga un problema di sicurezza in mare. Credo che il comune a cui fa riferimento questa spiaggia si dovrebbe porre il problema della sicurezza di fronte a così tante persone e tanta gente in mare. We'll be right back. queste le parole di Riccardo Borgo, presidente del sindacato italiano Balneari, al microfono di Marta Cagnola. E con i turisti il sindaco fa cassa, questo è il titolo un po' della nostra notizia. Sono ormai 705, l'8,6% in più di un anno fa, i comuni che applicano la tassa di soggiorno a carico dei vacanzieri, un balzello che secondo i dati di Will Servizi genera un gettito per i municipi di 430 milioni di euro l'anno e che varia molto da una località all'altra e in base al tipo di struttura. Per un albergo a 2 stelle si va ad esempio dai 60 centesimi a notte di Jesolo e 1 euro di Viareggio o Taormina, per un 3 stelle da 1,7 euro di Montecatini agli 1,5 euro di Rimini o Riccione. Il tributo cresce nelle città d'arte, per un 3 stelle si pagano 4 euro a Roma e Milano e un solo euro a Genova o Napoli, per un 5 stelle dai 3 euro di Napoli o Palermo fino ai 9 di Roma. E infine una notizia che riguarda gli aeroporti. La Nova Port Italia SPA, società che fa parte della galassia del colosso russo Nova Port, diventa il socio di controllo dell'Air Dorica, la società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Finora Air Dorica era controllata dalla regione Marche. E con le notizie in breve ci fermiamo qui, pronti per il primo tema di Focus Economia. Tema di Focus Economia, che è la banda ultralarga, via libera del CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, la prima tranche di risorse per la banda ultralarga, subito disponibili finanziamenti per 2,2 miliardi nell'ambito di un piano che ne vale complessivamente 12, di cui 7 attraverso fondi pubblici. Lo stanziamento è da utilizzare per interventi cantierabili in 6.800 comuni da qui al 2020 in aree dove i privati non avrebbero convenienza a investire senza incentivi. In tali aree vive il 35% della popolazione. I primi bandi partiranno in ottobre. Il piano per la banda ultralarga prevede la fornitura di connessioni ad una velocità di 100 megabit per secondo. Attualmente la velocità media delle connessioni in Italia è di 4,9 megabit per secondo. Per capire se questi numeri sono realistici, se per esempio la velocità dei megabit è con noi il collega Enrico Pagliarini di Radio 24. Buon pomeriggio Enrico. Buon pomeriggio a tutti voi, buonasera Vincenzo. Enrico, innanzitutto, questi soldi secondo te sono sufficienti? Prima domanda, e poi parliamo della velocità della banda, che è veramente l'elemento fondamentale. Sì, certo, la velocità e anche la diffusione. Allora, i soldi sono, se sono veri, sono sicuramente sufficienti. Ricordiamo che qui stiamo parlando di una cooperazione tra Stato e privati, tra operatori privati, quindi le società di telefonia fissa in questo caso, e quindi alcuni soldi li mette lo Stato, alcuni soldi li mettono i privati. Ho detto telefonia fissa, però ricordiamo che tutta questa infrastruttura serve e servirà anche alla telefonia mobile, perché con lo sviluppo della telefonia mobile che già conosciamo oggi e ancora di più quella dei prossimi anni, quando le reti addirittura 5G del 2020 a seguire avranno una magliatura molto più intensa, quindi ci saranno molte più antenne, ecco, tutta questa infrastruttura avrà bisogno di una rete di internet fissa, certo. Quindi è molto importante, perché questo lo diciamo perché poi c'è chi dice ma si potrebbe fare tutto col 4G e col 5G, non è completamente vero. Comunque, quindi rete fissa da una parte e rete mobile dall'altra. Come interventi, esatto. Innanzitutto. Le due cose vivono assieme. Qui stiamo parlando di interventi che riguardano la internet fissa per arrivare nelle case, negli uffici. Ricordiamo che tutto nasce da alcune indicazioni che arrivano dall'Unione Europea. L'Unione Europea, certo, ci ha dato un obiettivo al 2020. Questo obiettivo è stato fatto proprio dal governo con un piano banda ultralarga che è stato approvato il 3 marzo, che prevede di portare a tutta la popolazione una velocità di connessione ad almeno 30 megabit e ad almeno la metà della popolazione una velocità di almeno 100 megabit. E se guardiamo alle velocità di oggi, sicuramente questo è un obiettivo molto molto molto importante, molto sfidante. Allora, tu hai ricordato che 2,2 miliardi sono disponibili già oggi per questa area che di 6.800 comuni, che dove vive il 35% della popolazione, quindi è sicuramente una fetta molto importante. Però stiamo parlando della parte quasi quasi più facile, perché certo, questa è la parte dove gli operatori non investirebbero, si dice a fallimento di mercato, quindi soldi pubblici, gli operatori parteciperanno ai bandi di gara, alcuni vinceranno questi bandi di gara e faranno un'infrastruttura per aumentare la capacità della rete fino alle velocità. Questo per dire che questa è una parte quasi marginale, ma poi c'è la parte più succosa, che è quella dei 12 miliardi di cui parlavi prima. Sì, esatto. Allora, questi 2,2 fanno parte dei 12 miliardi. No, dicevo, è la cosa più facile, perché naturalmente qui sono soldi prevalentemente pubblici e gli operatori quindi sono molto interessati a queste risorse. Però poi bisognerebbe andare a vedere quanto vale in termini di PIL, quanto vale anche in termini di popolazione, di età di popolazione, questo 35% della popolazione. Da qui a raggiungere poi tutto il resto, diciamo, ci manca un bel pezzo. Sicuramente siamo partiti e questa è una nota positiva, però ricordo che diciamo, tra le risorse pubbliche ci sono 7 miliardi e altri 5 li dovrebbero, e usiamo il condizionale, certo, mettere i privati. E infatti, quindi, Enrico, su questo ti fermo un attimo, perché proprio di numeri ha parlato il presidente del Consiglio Renzi, ascoltiamo le sue parole. Quanto vale questo piano banda ultralarga? 12 miliardi, di cui 5 privati, 7 pubblici. Di questi 4,9 miliardi del governo, 3,5 vengono dal Fondo Sviluppo e Coesione e la prima parte, il primo assegno che viene staccato oggi, 2,2 miliardi di euro, è stato appena deliberato dal CIPE. Quindi è come se noi di questi 12 miliardi oggi mettessimo sul tavolo immediatamente disponibili 2 miliardi e 200 milioni. Perché mettiamo dei soldi pubblici? Perché il privato naturalmente a Milano o nelle aree in cui l'operazione si paga e sta in piedi da sola non ha problemi a intervenire. Il privato ha problemi a intervenire nelle zone in cui è meno forte la possibilità di investire risorse per fare infrastrutture, perché il numero di potenziali ritorni è più basso rispetto a quello che l'investimento assicurerebbe. Queste dunque le parole del Presidente del Consiglio Renzi, sempre ad Enrico Pagliarini, collega di Radio 24. Allora chiedo, il privato investe nelle città dove c'è un maggiore ritorno e dove c'è evidentemente un target anche più che segue maggiormente l'evolversi, certo, dove c'è il mercato. Però in generale siamo così convinti che poi il privato riesca a mettere questi soldi, che non sono pochi? Allora, diciamo che Le intenzioni ci sono, perché è stata fatta una consultazione, gli operatori, quasi tutti i principali operatori italiani hanno partecipato a questa consultazione e al governo è stato detto: noi siamo interessati. Allora, ricordiamo che ci sono quattro tipologie di aree. Le aree che sono completamente a fallimento di mercato e lì i soldi glieli mette solo lo Stato, poi ci sono altre tre aree dove c'è una certa gradualità, un mix tra intervento pubblico e intervento privato. Diciamo che molto probabilmente gli operatori faranno quello che hanno promesso. I problemi sono magari relativi ai tempi. Non parliamo di tecnologia, di come poi, se il governo avrà voglia di indicare anche che tecnologie utilizzare, ma sicuramente sui tempi. Renzi ha detto che nei prossimi 3 anni diventeremo leader in Europa per la banda ultralarga. Non assolutamente è facile. Così. Noi saremo leader in Europa, sì, nel giro di un triennio. Queste le parole di Renzi. Sì. Ecco, magari l'ha sparata un po' grossa. Allora, a proposito di tempi, ricordiamo che il resto, oltre a questi 2,2 miliardi, per erogare, per rendere disponibili tutti gli altri soldi ad arrivare fino ai 4,9-5 miliardi che ha indicato, serve allora un'ulteriore delibera del CIPE, un provvedimento normativo e in più, cosa molto importante, tutto il piano deve essere approvato dalla Commissione Europea. C'è chi dice che il resto di queste risorse, a parte questi 2,2 miliardi disponibili subito, non saranno disponibili prima di alcuni mesi, c'è chi addirittura dice all'inizio o a metà del 2016. Quindi ricordiamo che il piano è stato approvato il 3 marzo, quindi certo, rischiamo di aspettare ancora. Poi un conto è fare i bandi, un conto poi è cominciare a fare l'infrastruttura, quindi a scavare, a mettere la fibra ottica, magari anche in canalizzazioni che sono già pronte, ecco, perché in alcune su parti questo d'Italia Enrico sono... ho una domanda da parte di un ascoltatore che ti faccio tra breve. Rimaniamo però su questa prima fase, laddove sempre Renzi dice la prima fase del piano per la banda ultralarga sviluppata in accordo con Telecom raggiungerà 10 milioni di italiani e 800 comuni, quindi il premier fa anche riferimento a Telecom. Allora ascoltiamo questo passaggio sempre di Renzi. Questi investimenti riguardano 10 milioni di italiani, dotano di fibra ottica 800 comuni, oltre 400 ospedali, 2.000 scuole, 5.000 sedi della pubblica amministrazione. Questo è un passaggio molto importante, perché la mappa di un'Italia innovativa è lì, la stiamo realizzando giorno dopo giorno, passo dopo passo, il 1,2 miliardi di stamani, i 2,2 miliardi di oggi, ed è un lavoro molto serio, molto significativo, che vi garantisco è cruciale per il futuro dell'Italia. Quindi Enrico, un intervento, parole di Renzi, cruciale per il futuro dell'Italia, ma un ascoltatore ci chiede, a rete ultimata, quindi quest'ultra banda larga realizzata tra pubblico e privato, poi questa rete di chi sarà? Lui auspica, questo ascoltatore, che rimanga una rete pubblica. Allora, qui c'è un dibattito molto acceso. Allora, sicuramente nelle aree completamente a fallimento di mercato l'infrastruttura viene realizzata dagli operatori, ma è coordinata da Infratel, che è una società del Ministero dello Sviluppo Economico, e in quelle aree, solo in quelle aree, la rete è di proprietà pubblica, soldi pubblici al 100% rimane pubblica. In molte altre aree, molte di quelle a cui faceva riferimento Renzi nelle parole che abbiamo appena ascoltato erano relative al sud, in molte altre aree la rete rimane di proprietà di chi vince il bando. Allora, visto che i bandi fino ad oggi li ha vinti nel 90% o forse più dei casi Telecom Italia, la rete rimane di Telecom Italia, a fronte però di un investimento che è un mix tra pubblico e privato. Però il dibattito è aperto, perché c'è chi dice che se si investono soldi pubblici la rete dovrebbe essere di proprietà pubblica, e qui devo dire che si è parlato per mesi di un decreto che avrebbe dovuto essere approvato, poi è stato scartato preferendo un altro tipo di iter che sicuramente allungherà i tempi, un decreto che prevedeva un forte investimento del pubblico e anche, diciamo, un forte incentivo verso operatori, e faccio riferimento a Metroweb, che è partecipato dalla Cassa Depositi e Prestiti, che naturalmente non dico che fa rimanere l'infrastruttura in mani pubbliche, ma fa rimanere l'infrastruttura ad una società nella quale il pubblico ha una forte presenza, perché Cassa Depositi e Prestiti di fatto è una società che possiamo fare riferimento, indubbiamente, possiamo definire nel perimetro del pubblico. Però questa è una partita che vedremo se si tornerà ad aprire, però per il momento ci sono ancora molti punti interrogativi, non solo sui tempi ma anche sulle modalità poi di erogazione di questi soldi. Quindi, perché dovrà, ecco, diciamo così, una legge o un provvedimento analogo, che è importante partire, Enrico, e poi rimangono tante domande su alcuni aspetti. Un ascoltatore scrive, diciamo che la fibra arriva e arriverà fino a solo sotto casa, poi da lì in poi cosa succede, e poi tutti i servizi che comunemente anche noi stessi come cittadini troviamo con i vari operatori telefonici, li riavremo anche con questa banda larga? Sono tutte domande che dovremmo dedicare gran parte della trasmissione. Sì, certo, dico solo una cosa sui disservizi. Allora, mano a mano che ci spingiamo verso le abitazioni con la sola fibra ottica, e questo è un altro dei temi, perché per il momento molti investimenti di molti operatori prevedono la fibra ottica solo fino agli armadi di casa. Comunque, diciamo che attendere, se l'infrastruttura diventa effettivamente solo in fibra ottica, il tema dei disservizi è un tema che dovrebbe essere superato. Certo, perché la fibra ottica ha un'ultima domanda, Enrico, che ci scrive proprio adesso un ascoltatore al 349-238-6666, i costi per l'utente finale, per esempio, di un contratto flat? Allora, su questo ci sarà sicuramente un intervento, comunque un'analisi dell'autorità per le comunicazioni. L'obiettivo del governo, anche grazie a dei voucher, e quindi di fatto degli incentivi per l'acquisto di connessioni in fibra ottica, e anche qui si apre un capitolo legislativo perché poi questi voucher vanno normati, però diciamo certo. Che l'obiettivo del governo e del piano è quello di far costare queste nuove connessioni lo stesso che oggi lo noi paghiamo per la DSL, diciamo. Perfetto, così. Perfetto. In quell'ordine, grazie. In quell'ordine. Grazie allora Enrico Pagliarini, collega di Radio 24, chiudiamo qui questa nostra prima pagina. Velocemente, Piazza Affari ha chiuso in questo momento 0,45, dopo meteo, pubblicità, la borsa, approfondiremo la corsa di Monte Paschi e poi l'ultima parte dedicata all'energia. Focus Economia. Di nuovo insieme, 17.40, Focus Economia, siamo alla borsa, ci concentriamo sulle contrattazioni di Piazza Affari e lo facciamo con il collega Guido Maurino di Radio Corre, il Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Guido. Buon pomeriggio a voi. Guido, mercati piatti e deboli, c'è un motivo preciso oggi? Sì, c'è un motivo preciso, che questa attesa che si è consumata per tutta la giornata rispetto ai dati sull'occupazione americana per quello che riguarda il mese di luglio. Abbiamo visto che gli Stati Uniti continuano a creare nuovi posti di lavoro, 215.000 lo scorso mese, e il tasso di disoccupazione si mantiene al 5,3%, quindi notizie positive per l'economia americana, ma che d'altra parte avvicinano un possibile rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. E se questo avvenisse già a settembre, come a questo punto sembra più probabile, sarebbe una notizia, diciamo, negativa per quello che riguarda i mercati, e questo si è andato a ripercuotere un po' sulla giornata di oggi. Queste poi sono un po' le assurdità dei mercati, ovvero laddove c'è una notizia positiva sull'occupazione viene interpretata negativamente, perché poi ci sono timori che il denaro possa costare di più. Velocemente su Monte dei Paschi di Siena? Sì, per quello che riguarda Monte dei Paschi di Siena, ieri la banca ha diffuso conti semestrali positivi che hanno visto un ritorno all'utile, anche la solidità patrimoniale è stata apprezzata dagli analisti, mentre ci sono ancora dei problemi per quello che riguarda i crediti deteriorati e i ricavi caratteristici, però questo ritorno all'utile fa pensare che possa esserci un'accelerazione per un possibile matrimonio del Monte dei Paschi con un altro istituto, e quindi questa speculazione un po' ha fatto sì che il titolo oggi guadagnasse molto, perché ha fatto più 8,78%. Certo, e UbiBanca utile semestre più 17%, utile normalizzato a livello più alto dal 2008. Sì, UBI invece ha ceduto l'1,42%, si tratta comunque di conti positivi, ma oggi abbiamo visto un po' di vendite generalizzate sul settore bancario, anche sul Banco Popolare, meno 1,90%, che ha diffuso i conti pochi minuti fa a borsa già chiusa. Un po' di vendite sul settore bancario dopo un periodo comunque abbastanza positivo per gli istituti, anche quelli più grandi hanno registrato flessioni, anche se più contenuti, Unicredit meno 1,26% e Intesa San Paolo meno 1,21%. E vedo invece un rimbalzo per quanto riguarda i petroliferi, che nei giorni scorsi non erano andati bene, oggi invece virata per Tenaris, Saipem ed Eni. Sì, oggi appunto Tenaris ha guadagnato il 4,01% dopo che ieri aveva ceduto quasi un punto e mezzo sulla scorta di una trimestrale non particolarmente positiva, bene anche Saipem più 1,23% ed Eni più 0,75%, ma oggi abbiamo visto acquisti generalizzati sui listini europei per quello che riguarda i petroliferi, anche faccio un esempio su tutti, Total ha guadagnato l'1,2% a Parigi ed è stato il titolo migliore sulla borsa francese. E poi Guido, affrontiamo due temi laddove i conti societari sono stati giudicati dal mercato non positivamente. Partiamo da Unipol Sai e poi passiamo a Telecom. Sì, per quello che riguarda Unipol Sai, i conti semestrali non sono stati particolarmente apprezzati, nonostante l'utile netto di 455 milioni in progresso del 27,4% rispetto all'anno scorso, perché questo utile è stato spinto dalla gestione finanziaria, mentre la raccolta diretta assicurativa ha mostrato un calo del 14,2% a parità di perimetro, e questo è stato visto abbastanza negativamente dal mercato. Ha debuttato oggi Giglio, un network televisivo esordio in flessione del 5%. Sì, in realtà poi sul finale ha accentuato le perdite, ha ceduto il 10,53%, c'era questo esordio di questa società attiva appunto nella televisione con alcuni canali specializzati sul lusso e sulla nautica, un esordio possiamo dire amaro, ecco. Un esordio amaro per Giglio. Chiudiamo qui la nostra pagina dedicata a Piazza Affari. Tra brevissimo però un approfondimento su Monte dei Paschi di Siena. Ringraziamo Guido Maurino, il collega di Radio Cor del Sole 24 Ore. Dicevamo di Monte dei Paschi di Siena, ritorno all'utile, dopo 3 anni di perdite torna il segno più nei conti della banca senese, il titolo vola in borsa, chiude il semestre con un utile, lo dicevamo, di 193,6 milioni di euro, il dato si confronta con la perdita di 353 milioni di euro dello stesso periodo dello scorso anno, il secondo trimestre 2015 conferma il ritorno alla redditività già evidenziato con il primo trimestre con un risultato netto di 121 milioni di euro. È con noi Marco Ferrando, il collega del Sole 24 Ore, al quale chiedo subito se questo ritorno all'utile era prevedibile almeno in questi tempi. Ma era prevedibile, forse non dell'entità, anzitutto buongiorno, dell'entità annunciata ieri, infatti questi 200 milioni di utile in 6 mesi, in 2 trimestri, dopo 3 anni, ricordiamo, sempre di perdite costanti, quindi di rosso, un rosso anche molto, molto profondo, effettivamente dimostrano che il Monte dei Paschi sta tornando a essere una banca normale, che è un po' quello che il mercato si voleva, come dire, sentir dire. Ecco, un ritorno ad essere una banca normale per una banca che poi così normale non è, ricordiamo che è la più antica banca del mondo, che però adesso a livello azionario vogliamo ricordare ai nostri ascoltatori a chi fa riferimento. Beh, dunque, anzitutto la novità di un mese fa è che nell'azionariato è comparso lo Stato, il Ministero dell'Economia con un 4%, questo perché il Monte dei Paschi, come ricorderemo, ha beneficiato dei famosi Monti Bond, li ha rimborsati, però non avendo chiuso in utile ha praticamente pagato la propria quota di interessi con una quota che corrisponde al 4%, quindi il primo, tra i primi azionisti, non è il primissimo, comunque c'è il Ministero del Tesoro, anche se va detto dovrebbe essere una presenza a tempo, nel senso che certo, il MEF ha dichiarato che sarà un azionista non attivo, quindi non assumerà iniziative particolari e non appena possibile, questione di mesi, uscirà. Comunque senz'altro questo fa del Monte una banca ancora con delle particolarità rispetto al resto delle banche italiane. Quindi una presenza del MEF e poi in quote, se non ricordo male, abbastanza simili anche vi sono per esempio la banca, la People's Bank of China, quindi partecipazioni importanti anche dall'estero. Sì, effettivamente in questa ondata di investimenti sull'Italia della Banca Nazionale Cinese c'è stato anche il Monte dei Paschi con il 2% o una cifra diciamo di quell'ordine di grandezza che è un po' la partecipazione standard, e poi c'è quel che resta del patto del 9% che nell'ultimo anno ha guidato le sorti del Monte, che vede coinvolta la fondazione che è scesa da quote che storicamente erano molto ampie all'1,55% insieme ai due soci sudamericani che sono Fintech e BTG Pactual, insieme hanno una quota stimata circa dell'8%, e poi c'è il partner storico nelle assicurazioni AXA con una quota del circa del 3%, e poi l'imprenditore Falciai che è entrato qualche mese fa intorno al 2%, quindi diciamo una compagine abbastanza eterogenea che fa anche da questo punto di vista del Monte dei Paschi un caso piuttosto originale tra le banche. Per un Monte dei Paschi che, lo ricordiamo, è ritornato all'utile, grazie a Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore, ora il traffico. Focus Economia. 17.50, ultima parte di Focus Economia dedicata agli effetti del grande caldo di questi ultimi due mesi. Abbiamo visto da una parte il ritorno sulle spiagge degli italiani, più 30% rispetto allo scorso anno, ma un effetto che forse non a tutti è visibile, il grande utilizzo di energia elettrica proprio degli ultimi mesi. A luglio la domanda di energia elettrica in Italia è stata di 32 miliardi di kilowattore, più 13,4% rispetto a luglio del 2014, lo ha comunicato ieri Terna, precisando che il dato è in assoluto il più rilevante di sempre per il sistema elettrico italiano, sia in termini assoluti che di incremento percentuale, incremento dovuto alle eccezionali temperature registrate. Dall'altra parte dobbiamo anche sottolineare che vi sono stati però recentemente a Milano, a Fiumicino, ma anche in aree del napoletano, dei distacchi dell'energia elettrica con evidenti disservizi per l'utente finale. Di tutto questo parliamo con il collega del Sole 24 Ore, Jacopo Giliberto. Buon pomeriggio, Jacopo. Buon pomeriggio. Partiamo da questo record nei consumi dell'energia elettrica. Leggevo che anni fa i picchi vi erano d'inverno, laddove si utilizzava l'energia elettrica evidentemente per riscaldare, adesso invece la utilizziamo l'estate per stare più freschi. Sì, non solamente per stare più freschi noi, ma anche per il cambiamento di tutto il modo che abbiamo oggi di consumare, per cui i computer che hanno la ventola di raffreddamento all'interno, la CPU, l'unità di intelligenza del computer produce una grandissima quantità di calore e che va dissipato. I computer, la catena del freddo, dei surgelati, dei cibi, degli alimenti, di tutti gli alimenti freschi hanno bisogno di fresco, certo. E tutti questi consumi ovviamente crescono con l'aumentare della temperatura. E quindi a fronte di questa domanda, Jacopo, la produzione nazionale innanzitutto come è messa? Mi sembra bene, leggendo anche oggi il tuo articolo sul Sole. Ma sì, le centrali elettriche ne abbiamo anche molto più del fabbisogno, cioè abbiamo circa 135.000 megawatt, centrali molto, molto superiori rispetto a un consumo. Il picco che è stato raggiunto il 21 luglio è stato di 59.000 megawatt, per cui più quindi di quasi tre volte una produzione quasi potenziale, quasi certo. due volte e mezza il fabbisogno abbiamo. E i problemi sono a valle, come segnalavi, cioè i problemi sono poi nella rete locale di distribuzione dell'elettricità in bassa tensione, che con questo caldo è molto sofferente. Gli impianti certo. Soffrono di fronte a questo caldo, hanno difficoltà a reggere gli impianti elettrici e i consumatori hanno molta domanda, esprimono una domanda molto più forte del solito, quindi l'insieme di queste cose produce anche dei momenti delle cadute di tensione, dei cali di tensione o addirittura in qualche momento dei blackout completi. Ecco Jacopo, poi della rete ne parleremo tra breve, ma sul fronte invece dell'offerta, che tipo di offerta abbiamo in questo momento in Italia? Io vado un po' a memoria, ricordo ancora le centrali ad olio, ma quelle evidentemente sono superate. Adesso che tipo di produzione abbiamo? Metano, ma poi vi è anche molto energia così detta verde? Sì, moltissime rinnovabili. Ormai nel mese adesso di luglio più del 50% è stato attorno al 50% il metano, ma in questi mesi fortissima è l'energia rinnovabile, circa il 40% della produzione italiana ormai è fornita dal sole, dal vento e da altre, e dall'acqua e così via, cioè tutta energia pulita. In alcune ore del giorno, nelle ore con maggiore quantità di sole e di vento e quando i consumi sono più modesti come nei fine settimana, più della metà per alcune ore più della metà della corrente che noi usiamo viene da fonti pulite. Ecco, secondo te, venendo alla rete, gli investimenti fatti da Terna sono comunque sufficienti? I distacchi di cui parlavamo prima sono abbastanza fisiologici o in effetti invece la rete va comunque ammodernata maggiormente? va ammodernata la rete, soprattutto va adeguata al cambiamento del modo di consumare. Teniamo presente che abbiamo una delle reti in assoluto più efficienti al mondo. Le nostre città, anche se soffriamo di questi disagi, a volte notevoli e a volte anche sono dei danni economici reali, anche consistenti, tutto sommato è tra le migliori e sono meno incidenti, meno avarie rispetto a quanto accade all'estero. Per esempio, in questo periodo Bruxelles, tanto per citare una città famosa, certo, in Europa, ha un'enorme inadeguatezza del sistema elettrico e hanno molti più blackout rispetto a noi, e parliamo di Bruxelles, una delle grandi capitali d'Europa. Assolutamente, quindi facendo gli scongiuri, blackout come quello famoso, non mi ricordo se fosse il 2002-2003 dell'estate, in teoria non dovrebbe riaccadere qui da noi. Bisogna incrociare le dita, perché la sfortuna, come sappiamo, è dietro l'angolo, però non ci sono le condizioni, ecco. Ecco, sfrutto questi ultimi due minuti di trasmissione però per sottolineare come questi distacchi, che magari per le utenze domestiche possono essere irrilevanti, distacchi che accadono, almeno secondo alcuni frequentemente, per alcune aziende che hanno dei cicli produttivi molto legati all'energia, possono essere anche molto dannosi, sempre sul Sole 24 Ore, insieme al tuo articolo oggi di Jacopo, vi è l'accusa di Unilever, la società che di fatto è proprietaria del marchio Algida, dice via da Napoli perché nella zona vi sono troppi distacchi e addirittura denunciano 300.000 euro di danni solamente per i recenti distacchi. Quindi Jacopo Giliberto, qualcosa di più va fatto proprio per la rete, per adeguarla ai consumi attuali che sono cambiati, ricordavi tu. Beh sì, c'è anche un altro elemento: molti consumatori in alcune zone, molti consumatori industriali sono un po' pigri e non adeguano i loro impianti interni, e questo produce sulla rete degli scompensi. Se un vecchio stabilimento fa partire i macchinari tutti insieme, tutta quell'area per esempio subisce un calo di tensione, come quando da noi parte la lavatrice e si vede affievolirsi per un istante la luce delle lampadine, ecco, trasformato in dimensioni diverse produce un calo di tensione, e questi cali di tensione sulle altre fabbriche vicine che usano sistemi moderni influisce. Subito l'elettronica è sensibilissima a leggerissima variazione, non è un blackout, è appena un calo di tensione, ma impazziscono i computer, si fermano i macchinari, i sistemi a controllo numerico impazziscono ed è un danno rilevantissimo. Speriamo dunque che tutti possano adeguare meglio la propria rete, anche quella di ogni impresa. Grazie a Jacopo Giliberto del Sole 24 Ore. Per oggi è tutto, un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, ad Alessandro Chiappini e Pietro Lacorte in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta.